Siamo all'appuntamento con il cinema Visionari ogni giovedì dalle 14 alle 15, quest'oggi con un po' di anticipo, visto che comunque non c'è stato neanche il giornale radio, abbiamo tanti ospiti. Questa è Radio Onda Rossa, dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere e uno dei modi è la sottoscrizione sul conto corrente postale 61804001 da intestare a Radio Onda Rossa, Via De Volsci 56 00185 Roma, oppure consultando il sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sull'home page c'è l'opzione sostieni per la modalità PayPal. Per quanto riguarda la scaletta della trasmissione di quest'oggi, potete trovarla sul sito della radio, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, e lì trovate gli ospiti di questa settimana, le uscite in sala di oggi, giovedì 5 febbraio 2015, nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi il link per ascoltare la puntata precedente, ma anche tutte quelle dell'inizio 2015. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Cominciamo subito con Emiliano Monreale della Cineteca Nazionale per parlare dell'uscita di due film di Francesco Rosi, ossia Salvatore Giuliano e Le mani sulla città, in versione restaurata, che saranno al cinema da lunedì 9 febbraio. Emiliano, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve a tutti. Allora, una doppia uscita importante, purtroppo in un periodo in cui Francesco Rosi è venuto a mancare. Un'operazione congiunta con la Cineteca di Bologna. Ci parli un po' di questo progetto, Emiliano? Sì, si tratta di un progetto che ci vede uniti alla Cineteca di Bologna, perché loro ormai già dall'anno scorso ogni mese mandano in sala meritoriamente dei vecchi film, chiamiamoli così, dei classici del cinema italiano e straniero, e questa volta si è deciso di anticipare un'uscita gira da qualche tempo di due film restaurati di Francesco Rosi, proprio per ricordarlo a poche settimane dalla sua morte. Ecco, i due film sono stati restaurati, appunto, uno dalla Cineteca di Bologna, Salvatore Giuliano, e l'altro dalla Cineteca Nazionale, da noi, del Centro Sperimentale di Cinematografia, ed era stato presentato in occasione del cinquantennale del Leone d'Oro vinto dal film, cioè a Venezia nel 2013, un anno e mezzo fa. Era venuto Rosi a Venezia, c'è stato un grande riscontro e si è potuto verificare già in quell'occasione l'enorme interesse che c'era ancora per un film come Le mani sulla città, per la sua grande attualità. Ricordo che tra l'altro proprio nei giorni in cui lo presentammo a Venezia, casualmente erano i giorni in cui venivano fuori le novità dell'inchiesta sul Mose, no? E quindi stampa locale ebbe buon gioco a fare dei collegamenti fra Le mani sulle città napoletane di 50 anni prima e Le mani su Venezia di quei giorni. Oh, tra l'altro, come dicevi tu, c'è questa concomitanza Salvatore Giuliano, si parla di mafia, sono passati decenni da questi due titoli, eppure mantengono appunto una loro estrema attualità, purtroppo. Beh, sì, perché sono purtroppo per l'Italia, ma per fortuna per questi film, nel senso che erano previsti come film politici, ma non come film che dovessero invecchiare, perché oggi la cosa che possiamo meglio apprezzare di questi film è proprio la loro straordinaria modernità linguistica. Ricordiamo che sono film, non solo film che denunciano alcuni mali politici dell'Italia degli anni del Mumu, un film del 62, l'anno italiano, l'altro del 63, ma sono dei film che raccontano attraverso un linguaggio moderno. Ricordiamo sono appunto gli anni della Nouvelle Vague, delle grandi innovazioni, ma da noi sono gli anni di Antonioni, di Fellini, e Rosi sta al passo coi tempi e, per esempio, ricordiamo con Salvatore Giuliano, smonta la narrazione, fa un attardo il bandito Salvatore Giuliano e poi sfrange, diciamo, la narrazione, costruendo una serie di flashback che trasforma, diciamo, facendo un film che non ha un vero protagonista, ma il cui protagonista è proprio, diciamo così, la storia d'Italia, gli eventi che ruotano intorno a Giuliano. Nelle Mani sulla città, invece, il modello sembra essere in maniera più esplicita quello del, di certo, grande cinema americano, cioè rimane lì la grande vicinanza con certo cinema americano degli anni 50-60, penso a Elia Kazan, penso a Sidney Lumet, cioè lì c'è un grande Rob Steiger che è speculatore politico e speculatore edile napoletano, troneggia al centro del film, ed ecco lì invece giustamente che in Salvatore Giuliano c'è al centro un personaggio forte, un personaggio che non è soltanto una maschera politica. Quei due sono probabilmente i film che sono il vertice del Rossi politico. Tra l'altro ho dedicato la copertina di questa settimana della trasmissione proprio ad un fotogramma di Salvatore Giuliano di Portella della Ginestra con i manifestanti con le bandiere al vento. Emiliano, volevo chiederti il tipo di restauro che avete effettuato, su cosa avete lavorato? Allora, ripeto, la Cineteca Nazionale ha restaurato Le Mani sulla città, la Cineteca di Bologna invece ha restaurato l'anno scorso Salvatore Giuliano, e sono entrambi dei restauri digitali, sono dei restauri che partivano dai materiali originali in pellicola e li hanno trasposti, diciamo, sui supporti, cui oggi, grazie ai quali tra l'altro i film oggi possono circolare anche in sale digitalizzate che non hanno più il 35 mm. Erano due film molto belli, entrambi con la fotografia di un grandissimo direttore della fotografia che era Gianni Di Venanzo, e quindi c'è stato prima questo restauro 2K delle Mani sulla città, con i materiali messi a disposizione dagli aventi diritto, e poi invece la Cineteca di Bologna ha fatto questo restauro di Salvatore Giuliano in 4K, dire, in entrambi i casi i materiali di partenza erano piuttosto buoni, poi c'erano i negativi originali. Sono ovviamente molto soddisfatto del nostro restauro, come lo era anche, è stato anche Rossi quando l'ho visto, e diciamo da osservatore spassionato posso dire che anche il restauro di Salvatore Giuliano fatto dalla Cineteca di Bologna era veramente di grandissima qualità. Emiliano, che tipo di distribuzione ci sarà lunedì 9? Allora, questo è il versante di cui si occupa in realtà la Cineteca di Bologna, con Circuito Cinema, quindi sono i distributori. Però il film esce, come tutti gli altri della serie, in varie città italiane, quindi in cinema normali, e poi però ci sono una serie di retrospettive, di proiezioni particolari. Per esempio, so che la Cineteca di Bologna, il Cinema Lumiere, sta facendo una retrospettiva completa, perché abbiamo fornito anche molte copie. Invece a Roma, questo la radio romana lo... scusatemi, sono in treno, quindi sì, no, infatti allora stavi dicendo per Roma cosa prevede? Per Roma di un ricordo di Francesco Rosi, che ci sarà martedì 17, credo che sia martedì della, non di questa settimana, diciamo tra 10 giorni, tra 12 giorni, al Cinema Trevi alle ore 18:30 c'è un incontro con Roberto Andò, allievi spirituali di Rosi, e con Raffaele Patria, sceneggiatore di molti film di Rosi, tra cui anche Le Mani sulla città, e con Stefano, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, che lo ricorderanno presentando appunto Salvatore Giuliano. Questo è un appuntamento che c'è martedì 17. Dell'altra settimana, tra 12 giorni al 5, alle ore 18:30. Benissimo. E poi ci sarà in realtà, lo ricordo anche, questo è importante, curiamo anche una retrospettiva completa di Francesco Rosi, insieme a dei materiali provenienti da Raiteche, per il Festival di Bari che si svolge nella seconda metà di marzo, il Festival di Restauratrice Nuovo D'Addio. Anche lì fanno un omaggio a Rosi. Insomma, questo mese di marzo è ricco di iniziative in ricordo di questo grande regista. Sai più o meno il numero di sale che proietteranno i due film in tutta Italia? Non lo so, sono una ventina, ma direi una scelta. Sono le grandi sale, sale cittadine. Per esempio a Roma c'è sicuramente l'Alcazar, che lo fa, e credo anche il Nuovo Aquila. Benissimo. Il lunedì e il martedì, però, e attenzione, cosa da specificare, che in realtà non è tutta la settimana. Il film viene mostrato in cinema il lunedì e il martedì per tutto il mese di, diciamo, di questo tra febbraio e i primi di marzo. Sono tra febbraio prossimo, e primi di marzo. Benissimo. Emiliano, io ti ringrazio, buon viaggio a questo punto. A presto. A presto. Ciao. A presto. Emiliano Monreale della Cineteca Nazionale sull'uscita in sala dei film di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano e Le mani sulla città in versione restaurata il 9 febbraio. Come diceva lui, da a febbraio inizio marzo, il lunedì e il martedì di ogni settimana. Ed eccoci con Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso per parlare della creazione della sezione archivio storico digitale sul catalogo web di DDB. Paco, ben ritrovato. Buona giornata a tutti e tutti. Beh, una novità molto interessante e importante per questo 2015. Sì, esatto, come avevamo annunciato prima delle feste, abbiamo finalmente avviato l'altra sezione fondamentale del lavoro che concerne proprio l'intero catalogo, ovvero la sezione di archiviazione. Una sezione che racchiude al suo interno, ovviamente inseriremo gradualmente i materiali un po' per volta, però diciamo che tocca un altro ambito che per noi è molto importante, ovvero la possibilità per gli utenti sul web di accedere a materiali storici o comunque materiali di movimento dagli anni 70 a oggi, anzitutto in formula gratuita, per cui disponibili per chiunque volesse, perché vengono rilasciati con le licenze Creative, e soprattutto un lavoro di catalogazione di questi materiali e di, soprattutto ancora, di restauro di questi materiali, nel senso che molti di questi materiali stanno su supporti ormai obsoleti, quindi come redazione ci occupiamo anche proprio non solo di cernitarli, ma anche di restaurarli attraverso i vecchi formati VHS o similari e di renderli disponibili sia in streaming che in download. Mm-hmm. Abbiamo iniziato appunto settimana scorsa con il primo di questi preziosi lavori che ci ha fornito appunto Bernardo Iovene della redazione giornalista di Report, che penso conosciate, e che aveva appunto questi materiali a disposizione nel suo archivio personale, e quindi abbiamo iniziato con lui questo lavoro, ma dalle prossime settimane inizieremo anche a inserire aree, sezioni tematiche legate al 77, agli anni 90 e al G8 di Genova, e insomma tutto questo materiale piano piano verrà racchiuso dentro delle macro aree in maniera tale da essere usufruibile a chiunque, sia per ragioni personali ma anche per motivi di ricerca, di studio e quant'altro. Dicevi, avete iniziato la settimana scorsa, al momento di quanti lavori consta questo archivio? Allora, la settimana scorsa appunto abbiamo lanciato il primo, che è questo preziosissimo mediometraggio di 30 minuti sulle prime occupazioni abitative del movimento, dell'allora nascente movimento migranti a Bologna, quindi parliamo di primissimi anni 90, e dalle prossime settimane, settimana per settimana, lanceremo dei focus dove invece inseriremo altri materiali appunto ordinati per tematiche, però sarà un lavoro graduale, anche perché ovviamente è un lavoro molto faticoso, soprattutto la fase di restauro, quindi piano piano andremo ad arricchire il catalogo. Anche perché chiaramente parallelamente a questo continua l'attività standard del sito, e già per febbraio abbiamo delle nuove proposte che stiamo lanciando, per cui insomma con le forze che abbiamo cerchiamo di portare avanti tutti e due i filoni. Ecco, proprio a proposito di questo volevo chiederti come funzionerà il lavoro di digitalizzazione per i lavori che vi arrivano. Ma fondamentalmente noi forniamo un servizio gratuito, nel senso che ovviamente i fini sono altri, per cui chiunque abbia del materiale, l'ideale sarebbe già del materiale montato, perché se dovessimo anche lavorare sui grezzi allora diventerebbe davvero complicata. Certo. Però chiunque appunto possieda, soprattutto su VHS, che è un formato che sta tragicamente morendo con una velocità che secondo me stiamo un po' sottovalutando, noi ci occupiamo appunto della fase di digitalizzazione e soprattutto di tutto il restauro dell'audio e del video direttamente nei nostri studi di montaggio, e successivamente a quello appunto il lavoro viene messo in player gratuito attraverso il canale di distribuzione dal basso, e per chi ne avesse bisogno c'è anche la possibilità di avere l'MPEG 4, quindi comodo e facile da usare per fini di ricerca, di lavoro e quant'altro. Chiaramente questa è una sezione, come puoi intuire, che esula un po' da i meccanismi standard di distribuzione di film e documentari che utilizziamo, nel senso che qui proprio il perno fondamentale è l'accessibilità a tutti di questi materiali, rispetto a questi materiali molto preziosi, per cui non c'è una strategia distributiva, ma c'è proprio un lavoro di archivio che piano piano si fidelizzerà con tutta una serie di anche di archivi storici e di movimenti. Adesso abbiamo, siamo partiti anzitutto con l'archivio storico Lorusso Giuliani, che è un archivio qua a Bologna, però piano piano instaureremo proprio delle relazioni con altri archivi di movimento, mi è tale da fare proprio piano piano un lavoro di archiviazione. È chiaro che un archivio digitale non è nulla di nuovo, nel senso non siamo consapevoli di non aver inventato nulla di nuovo. La differenza sostanziale è che c'è una redazione che ci lavora dietro, per cui c'è tutto il lavoro di non solo di restauro, ma anche poi di messa in disponibilità di questo materiale organizzato in aree tematiche, per tag, eccetera. È un lavoro che facciamo direttamente noi, ecco. Paco, dicevi delle novità di febbraio, ce le puoi dire? Sì, posso già annunciarvi due o tre cose. La prima sicuramente, che abbiamo lanciato ieri, è Semitoni, questo documentario del 2014, uscito proprio da pochi mesi, che racconta attraverso tre band la scena, l'odierna scena underground musicale italiana. Quindi è un lavoro che ci interessava particolarmente avere nel catalogo, anche perché appunto è proprio una prima visione. E nelle prossime settimane abbiamo altri lavori da lanciare, tra cui un documentario sulla questione, ahimè, molto conosciuta del caso Uva, e quindi è un lavoro che ci teniamo ad avere, anche perché assieme al documentario di Vendemmiati su Aldrovandi ci permette appunto di aprire un filone tematico anche rispetto a questo tipo di lavori di documentazione molto importanti. E dall'altra parte un documentario invece che riguarda un vecchio stabilimento della Goodyear in Italia, che adesso è stato chiuso e che ovviamente ha lasciato tutta una serie di strascichi anche a livello di salute della popolazione locale, è abbastanza tragici, per cui è un lavoro che ci tenevamo ad avere in catalogo e che probabilmente lanceremo già nelle prossime settimane. Benissimo, allora i riferimenti finali per distribuzioni dal basso e poi ci salutiamo. Perfetto, allora per chiunque volesse, appunto, su distribuzionidalbasso.com, andando sul sito può non solo visitare la sezione dell'archivio storico che dicevamo, ma anche appunto il catalogo completo con tutti i documentari e le prime visioni, e può anche, a qualora appunto abbia proposte da farci, andare sulla sezione proponi il tuo progetto, dove ci può contattare per proporci un documentario o una produzione, o anche appunto se ha del materiale d'archivio da restaurare e da mettere a disposizione della collettività sul web. Benissimo. Paco, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi, a presto. Ciao. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulla sezione Archivio Storico Digitale creata la scorsa settimana sul catalogo web di DDB. Oh, sentivo la musica della nostra sigla in sottofondo, quindi ci stai ascoltando in streaming, Massimo Carozzi. Sì, esatto. Allora, Massimo Carozzi del collettivo Zimmerfrei, che abbiamo già avuto ospite qui con noi, per parlarci questa volta di una piccola rassegna dedicata proprio al collettivo, che sarà ospitata qui a Roma il 17 e il 18 febbraio prossimi, giusto Massimo? Giusto. Allora, raccontaci un po' di... intanto partiamo dal collettivo, come si è formato e con quali prospettive? Si è formato ormai tantissimo tempo fa, fra il 99 e il 2000, non ci ricordiamo mai la data certa di formazione, per cui sono passati veramente parecchi anni da quando abbiamo deciso di lavorare insieme. Siamo tre persone, io, Anna De Manincor e Anna Rispoli, e attualmente ci dividiamo fra due sedi, una qua a Bologna e l'altra a Bruxelles, dove vive Anna Rispoli. Sì. Appunto a Roma, fra il 17 e il 18 febbraio, ci sono due proiezioni di due nostri film documentari, una al Cinema Adriano, dove mostreremo Hometown Mutonia. di cui abbiamo già parlato nella scorsa, nello scorso collegamento. Esatto, sì. E invece il 18 al Chino, al Pigneto, faremo vedere il film che abbiamo girato nello stesso anno di Hometown, cioè nel 2013, a Marsiglia. E sempre al Chino, dopo la proiezione, ci sarà un live solo sonoro che si chiama Safari, che è un lavoro che stiamo portando in giro ormai da un paio d'anni, ed è un montaggio in tempo reale di ambienti sonori, un ascolto, diciamo, fatto al buio. Bene, allora parliamo un po' di questo lavoro marsigliese, Massimo. Certo. E dunque è un film che abbiamo girato nel 2013, fa parte di questa serie di documentari che si chiama Città Temporanee, Temporary Cities. E il film, come, diciamo, come è successo anche per le altre città, non abbiamo scelto Marsiglia, ma ci è stato chiesto di lavorare sulla città, e dopo una serie di sopralluoghi abbiamo deciso di esplorare, di ritrarre un piccolo bar che si trova nella Rue d'Aubagne, nel centro di Marsiglia, nel quartiere di Noailles. E il film mostra quello che succede giorno per giorno nell'arco delle tre settimane che siamo stati lì dentro questo piccolo bar, che è un posto abbastanza particolare, diciamo. È una specie di rifugio di una serie di persone all'interno di un quartiere prevalentemente nordafricano e comoriano. E questo invece è un bar un po' particolare, dove, diciamo, c'è una mescolanza di persone e una mescolanza etnica più varia rispetto al quartiere. E noi ci ha fatto subito venire in mente certi racconti di Bukowski, uno scrittore che abbiamo amato molto, e diciamo è un film ad alto tasso alcolico, ecco. Senti, l'impressione, io sono stato a Marsiglia 3 anni fa, oltre a quella di una grande mescolanza etnica, come giustamente ricordavi, anche c'erano in vari cantieri che erano aperti o stavano aprendo per una grossa trasformazione urbana. Sì, c'è in corso, c'è tutto questo progetto che si chiama Euro-Mediterranee, che è tutto un fronte degli ex docks di Marsiglia che stanno venendo, è uno dei più progetti di trasformazione urbana più grandi attualmente in Europa. Ora non ricordo esattamente quando è previsto il termine, però c'è proprio questa, la città che si sta trasformando. E noi siamo arrivati appunto nel 2013 e uno dei fronti interessanti era che avremmo potuto, diciamo, documentare, era anche questo della zona dell'Euro Mediterraneo, soltanto che è stata più forte l'attrattiva che ha avuto per noi questa piccola comunità che si ritrova intorno a questo bar, che è in qualche maniera un gruppo di persone che consapevolmente o inconsapevolmente si oppone a questi grossi progetti di ristrutturazione e di riscrittura urbana che spesso vengono diciamo decisi e scritti sopra le teste delle persone, degli abitanti, quelli che poi effettivamente stanno in strada. Ecco, l'impressione è stata proprio quella di piccole isole, soprattutto nella zona del porto, popolate da una varia umanità, ma il rischio non è che quello di venire schiacciate da questa trasformazione imponente? Ma sicuramente sì. Ora penso anche all'altra zona di Rue de la République, che è un grosso boulevard al centro di Marsiglia, che è sempre stato, diciamo, una zona molto popolare. E lì fra il 2005 e 2006 c'è stata una grossissima operazione immobiliare, la gente è stata in qualche maniera costretta a lasciare questi palazzi dove abitavano, semplicemente alzando gli affitti, ecco, rendendoli non più sostenibili. E per poi ritrasformare la zona in negozi e appartamenti di lusso, diciamo. Beh, è il destino un po' di tutto. Questa operazione qua è fallita per l'arrivo della crisi. Ah, e ora, certo, diciamo, tutta la situazione negozi ai primi piani non è partita e le case sono disabitate. Era un po' il destino che stanno correndo tutte le metropoli in Europa, insomma, e la gentrificazione avviene ovunque. Esatto, cioè è un processo che in modi e termini diversi, però anche noi che abbiamo girato molto l'Europa in questi ultimi anni abbiamo riscontrato in forme sempre diverse, però sì, è qualcosa che sta succedendo, ecco. Volevo chiederti, Massimo, del vostro, se avete un vostro luogo internet per saperne di più sulla vostra attività. Allora, c'è il nostro sito, che è zimmerfrei.co.it, che aggiorniamo non con moltissima solerzia, però insomma lì è l'archivio dove si possono trovare tutti i nostri lavori. E poi c'è la pagina Facebook. Benissimo. Massimo, io ti ringrazio, un in bocca al lupo, ci sentiamo per le prossime novità. Bene, buona giornata anche a voi. A presto. Ciao. Ciao. Massimo Carozzi del collettivo Zimmer Frei sulla mini rassegna a loro dedicata qui a Roma, sia all'Adriano che al Chino, il 17 febbraio prossimi. Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi, visionari@ondarossa.info. Eccoci con Mario Cirillo di Zalab per parlare dei progetti legati al documentario Container 158. Mario, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, come stai? Tutto bene, tu? Bene, grazie. Allora, io partirei però per chi ci ascolta, soprattutto per i saltuari ascoltatori e ascoltatrici, l'esperienza Zalab. Cominciamo da quella. D'accordo, allora vabbè, Zalab è un collettivo di videomaker e operatori sociali che lavora da anni nel video, producendo documentari e laboratori di video partecipativo. E abbiamo alle spalle documentari come Un uomo sulla terra, Mare chiuso, Il sangue verde. E niente, abbiamo organizzato laboratori di video partecipativo in Italia, ma anche in Palestina, in Tunisia, in Spagna, insomma, diciamo, abbiamo una storia molto lunga che non so come, diciamo, come sintetizzare in poche parole. Però insomma, già hai reso un po' l'idea del vostro lavoro. Container 158, tra l'altro ne abbiamo parlato qui in trasmissione, insomma, in un periodo in cui veniva proposto in proiezioni pubbliche. Di cosa si tratta, Mario? Allora, Container 158 è un documentario che è stato prodotto circa un anno fa da Zalab, è stato girato da Stefano Liberti e Enrico Parenti all'interno di un campo attrezzato. I campi attrezzati sono dei veri e propri lager istituzionalizzati nei quali vengono rinchiusi o dopo essere stati sgomberati e deportati dai loro campi informali in cui vivono, da cui provengono. E i campi attrezzati sono lontani da tutto e da tutti, sono spesso situazioni di grande marginalità umana in cui fondamentalmente le persone vegetano e sono in situazioni veramente di grande difficoltà. Ecco. Mario, volevo chiederti quante persone ospita questo spazio a Roma? Allora, a Roma ce ne sono diversi. Quello in particolare dove è stato girato il documentario ospita circa un migliaio di persone. Sì. provenienti da varie etnie, diciamo da varie, diciamo, con storie molto diverse, ammassati, diciamo, in questi container di 25 metri quadri l'uno, spesso che contengono famiglie di 8-10 persone. Diciamo. Come sappiamo, sono una situazione di grande deprivazione umana per queste persone che ci vivono, ma sono anche uno spreco di denaro pubblico pazzesco, perché come sappiamo anche dal recente scandalo di Roma Capitale, di Mafia Capitale, e anche dalle denunce di Associazione 21 Luglio parliamo di centinaia di milioni di euro, insomma, per queste strutture. Sì. Senti, i progetti articolati intorno a questo documentario, ce li illustri un po'? Allora, sì, dunque. Dunque, prima di tutto la distribuzione di container 158, come tutti i documentari prodotti da Zalanda, in qualche modo cerca di andare oltre la semplice visione del documentario e di coinvolgere direttamente le persone e le istituzioni per un cambiamento, diciamo. E quindi anche in questo caso abbiamo provato a costruire un percorso di coinvolgimento sia delle istituzioni che della società civile, in pratica. Sì. Allora, prima di tutto abbiamo un evento che stiamo organizzando per il 14 marzo al Cinema L'Aquila, che sarà una sorta di maratona Roma, in cui faremo una programmazione di oltre 16 ore continuate di film e documentari italiani ed esteri. In quell'occasione avremo anche diversi dibattiti in cui coinvolgeremo esperti e persone coinvolte sia nell'associazionismo che nella ricerca e sto andando in iperventilazione. Allora, ricominciamo. Quindi dicevo, questo grande evento organizzato per il 14 marzo al Cinema L'Aquila, sì. Evento che coinvolgerà diversi videomaker per quanto riguarda l'aspetto prettamente cinematografico, sì. e persone sia provenienti dai campi sia provenienti da realtà di associazionismo che in qualche modo lavorano e cercano di superare la tematica, cioè di superare sia gli aspetti relativi al pregiudizio, sia la scelta di utilizzare i campi attrezzati come strumento di gestione delle comunità rom. E in questa occasione sarà anche organizzato una grande premiazione di un concorso destinato ai ragazzi, concorso che si chiama Rompiamo Pregiudizi. In pratica abbiamo cercato di coinvolgere nel corso degli ultimi tempi, fino alla fine di marzo, diverse scuole con proiezioni e con percorsi didattici da affiancare a queste proiezioni. Mm-hmm. Quindi abbiamo richiesto ai ragazzi che partecipano a questa iniziativa di provare a mettersi in gioco con un concorso video e di scrittura. Il concorso video fondamentalmente consiste in uno spot di massimo 90 secondi in cui si tenta di rompere i pregiudizi, magari anche attraverso strumenti innovativi, utilizzando in qualche modo un linguaggio anche molto informale, e la sezione di scrittura invece è una sezione di carattere, una sorta di lettera aperta, sì, da indirizzare alle istituzioni. Ok. Senti, per quanto riguarda le date, ci ricordi quella della proiezione di tutta una giornata e poi anche i riferimenti internet di Zalab per saperne di più su questo progetto? Allora, l'evento è previsto per il 14 marzo. Sì. E sarà tutto pubblicato sul sito di Zalab, che è www.zalab.org, e sul blog di Container 158, che è container158.wordpress.org. Benissimo. Sarà possibile trovare tutto. È possibile trovare anche ogni informazione relativa al concorso. Al concorso video. Benissimo. Mario, io ti ringrazio. Ci sentiamo per le prossime novità. Benissimo, grazie a te, Federico. Un abbraccio, a presto. A presto. Ciao. Ciao. Mario Cirillo di Zalab sui progetti legati al documentario Container 158. Con noi Concetta Fratto, co-regista del documentario Usi Civici, Terre Nostre. Ciao Concetta, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuta, grazie a voi per l'invito. Allora, avevo visto questo documentario che era stato proposto ad un piccolo festival di cui ci occupiamo ogni anno da quando è cominciato qui al Nuovo Cinema Aquila. Ce ne parli un po', Concetta? Certo, allora questo progetto documentario sugli usi civici diciamo è nato proprio dalla passione di un incontro poi tra due realtà, noi Plasticam come produzione cinematografica indipendente e l'APRODUC, un'associazione culturale che si occupa da anni dei beni civici, delle proprietà collettive. Si tratta di un'associazione di giuristi, di architetti, di ambientalisti che hanno veramente dato un apporto eccezionale per divulgare questa tematica. Noi come produzione cinematografica piccolini quanto siamo, abbiamo investito insieme a questa associazione culturale proprio per diffondere questa tematica, essere consapevoli dei beni comuni, le proprietà collettive, sono quei diritti originari che appartengono alle comunità e di cui le comunità devono farne uso. Quindi in questo documentario noi abbiamo cercato di portare degli esempi andando sul territorio, degli esempi concreti e far capire come si può gestire questo patrimonio, e abbiamo diciamo portato gli esempi di tre realtà, quale l'Università Agraria di Tarquinia, l'Università Agraria di Allumiere e una piccola ASBUC, associazione proprio amministrazione di beni separati, che si chiama l'ASBUC di Giulianello, che è un paesino piccolo vicino Cori, dove questi giovani hanno preso in mano la situazione e hanno costituito questo ente. Poi si tratta sempre di enti pubblici, per gestire un patrimonio antico della comunità. Ora è chiaro che la gestione non è una cosa semplice. Una volta questi diritti venivano usati per i beni primari, che erano quelli proprio della coltivazione del grano, del legno nel bosco. Oggi abbiamo esigenze diverse e quindi il concetto di uso civico e di proprietà collettiva rientra in una sfera più ampia, mm-hmm. che è quello di una vita anche migliore che ogni comunità può fare, di una tutela dell'ambiente sempre maggiore, e anche preservazione dell'identità culturale di una comunità. Ora, con questo documentario noi abbiamo fatto un progetto pilota per raccontare queste tre realtà. Siamo andati, abbiamo conosciuto le persone, gli uomini, le donne che gestiscono questi patrimoni, e l'idea è quella di continuare a fare una sorta di mappatura degli usi civici in Italia attraverso il video, sempre con la collaborazione di APRODUC, questa associazione culturale il cui presidente noi siamo onorati di collaborare con loro, perché il professor Cerulli Relli, docente di diritto amministrativo della Sapienza di Roma, e l'avvocatessa demanialista Atena Lorizio, la quale si occupa, ha dedicato la sua vita alla diffusione delle proprietà collettive e del demanio civico. Mm-hmm. Noi come Plasticam abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse, anche se piccoli, però veramente le risorse e l'entusiasmo per portare avanti questo progetto. Ci auguriamo che venga diffuso, perché comunque sia il Festival delle Terre, dove abbiamo partecipato, ma poi l'abbiamo portato anche al Centro Studi di Trento in un convegno molto importante su questa tematica, e ha riscontrato molto successo. Molte proprietà, molti enti gestori delle proprietà collettive ci hanno contattato perché vogliono documentare con questo strumento che secondo noi è straordinario del documentario, queste realtà. Quindi proprio far fruire questa conoscenza. Sì. Poi che altro, ci sono tante cose per dire, cioè, dedico a questa tematica. Allora, a partire dal vostro documentario, la curiosità è sapere in queste tre realtà che avete visitato il tipo di attività che viene svolta. Certo, certo. Guarda, a Tarquinia abbiamo trovato il presidente di questa università agraria, che è una persona straordinaria, che ha gestito e gestisce in maniera insieme alla sua comunità questo patrimonio. Loro si occupano innanzitutto di allevamento delle vacche maremmane, quindi preservare questa razza che è proprio tipica del territorio, un allevamento allo stato brado, una produzione poi delle carni a livello biologico. E in più loro fanno quello che è detto l'antico legnatico, cioè loro praticamente hanno questi boschi che sono preservati grazie alla gestione degli usi civici, che ogni anno tagliano i boschi, quelli che chiaramente vanno tagliati per far crescere i nuovi alberi, quindi c'è un criterio, non viene tagliato il bosco così, e questa legna viene data a ogni appartenente alla comunità con bandi pubblici, tipo bandi pubblici, quindi ogni componente sa che può usufruire di quella quantità di legna per riscaldarsi durante l'inverno, capito? Quindi sì. Questo è un esempio, ma loro si occupano anche di dare questi pezzi di terreno dove la comunità, ogni individuo fanno gli orti, quindi gli orti collettivi, ognuno si può produrre il proprio orto, quindi mangiare anche in maniera più sana, no? Sì, sì, sì, sì. Ecco, e così anche a Allumiere, per esempio, ad Allumiere abbiamo trovato, a parte parliamo di enti che gestiscono veramente tanti ettari di terreno di uso civico e che grazie a questi sono stati preservati. A Allumiere abbiamo trovato, a parte l'allevamento che anche lì è molto sentito, ma lì per esempio hanno fatto tutta una serie di ristrutturazioni sui confini con le vecchie staccionate di legno, oppure hanno partecipato molto ai progetti LIFE, quindi hanno avuto dei finanziamenti anche per quanto riguarda tutta la rete, hanno rinnovato di abbeveraggio degli animali che pascolano allo stato brado, e poi una cosa molto bella, loro hanno fatto delle piantagioni di ulivo dove praticamente viene assegnato a ogni famiglia 30 piante di ulivo. Non diventano proprietari di questi terreni e delle piante, ma praticamente possono gestirlo e quindi farsi l'olio per il proprio fabbisogno. Giusto, capito? Sì, sì, sì, sì. E così anche lì, cioè, ci sono delle culture biologiche sugli orti, insomma, le realtà. Bisogna vedere il documentario perché noi siamo andati proprio dentro, quindi abbiamo visto operativamente cosa accade. Ecco, proprio a questo proposito, per la visione, avete un vostro spazio internet per saperne di più? Allora, guarda, noi per quanto riguarda, sì, diciamo che ci sono, a breve sarà messo sia sul sito dell'associazione di cui ti parlavo, APRODUC, quindi basta andare su www.demaniocivico.it oppure sul nostro sito www.lasticam.it e troverete già il trailer, ma troverete anche a giorni il documentario perché li stanno caricando. Poi l'idea è quella di portare questo lavoro e gli altri che faremo sulla tematica in giro, nel senso, noi abbiamo fatto già dei convegni, abbiamo fatto, a parte la partecipazione a questo di Trento, ma abbiamo proprio fatto un convegno in Calabria dove ancora gli usi civici se ne parla, ma si ha poco chiaro cosa fare di questo patrimonio, e abbiamo fatto un convegno a Bocchigliero, questo paese in provincia di Cosenza, che si è presentato molto sensibile a questa cosa, e poi a Crotone con l'associazione AMPA, l'associazione proprio dei produttori agricoli, dove abbiamo incontrato i produttori, sono stati informati di quello che si può fare con questo patrimonio, abbiamo proiettato il documentario, quindi l'interesse è stato molto grosso. Mm-hmm. E poi abbiamo intenzione di andare presso le università, le scuole, c'è una distribuzione, come dire, fatta in casa, altri canali, è così, insomma. Va bene, e allora ci sentiremo per le prossime cose. Senz'altro, vi terremo informate, sicuramente parleremo, incontreremo altre realtà, va bene? Un abbraccio e a presto. Intanto, grazie tanto, buon lavoro. Ciao. Ciao. Concetta Fratto, co-regista del documentario Usi Civici, Terre Nostre. Antonella Di Nocera, curatrice della rassegna Astradoc, viaggio nel cinema del Reale che si svolgerà al Cinema Astra a Napoli, è cominciata il 30 gennaio e proseguirà fino al 6 marzo. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, buonasera a tutti. Allora, pomeriggio. Antonella, Astradoc, una rassegna, come nasce questa rassegna? Raccontaci un po'. Beh, innanzitutto nasce nel 2009 da questo desiderio di far vedere a Napoli il cinema del Reale, sì, e quindi i documentari che ultimamente, come sappiamo, hanno raggiunto anche gli schermi ordinari, hanno vinto premi ai maggiori festival. In realtà c'è un percorso ampio di formazione e di abitudine a fare cinema documentaristico che va avanti da tanti anni. Certo. Ci sono anche molti autori italiani, e quindi abbiamo voluto dedicare questo appuntamento settimanale, grazie alla collaborazione con l'università, al Cinema Astra, a tutti i film che appunto raccontano e restituiscono una visione della realtà attraverso il cinema, attraverso le emozioni che il cinema può dare. Da quella data, dal 2009, abbiamo riempito e affollato la sala ogni venerdì in tutti questi anni nella stagione invernale, e quindi abbiamo fatto vedere i film a, credo ormai, un 20.000 persone in questi anni che sono venute e hanno incontrato gli autori, perché uno degli obiettivi è proprio quello di far incontrare il pubblico, sì, ai registi, con i registi, e di discutere insieme i temi che il cinema del Reale propone. Mm-hmm. La verità è che ormai, in una situazione in cui le informazioni sono così diffuse, si cerca in fondo anche la verità attraverso l'osservazione del Reale, con tempi più dilatati e con approfondimenti che passano per la visione cinematografica. Credo che sia una cosa che risponde anche ai tempi, insomma, di fronte all'informazione così rapida, così ingombrante che abbiamo nella vita di tutti i giorni attraverso il web, il cinema dà la possibilità di riflettere con più, sì, calma. Sì. Allora, Antonella, ogni venerdì, spesso con l'incontro con gli autori, quali sono i criteri di scelta dei titoli? Questo è diventato un po' un problema negli ultimi tempi, negli ultimi due anni, perché i film ormai sono tantissimi, sì, anche di grande qualità, molti. Molti sono i festival che abbiamo visto e incontrato, dove abbiamo visto e incontrato persone, molti sono gli autori che ci chiedono di far vedere il loro film anche ad Astradoc. Quindi quello che cerchiamo di fare è un po' di far vedere quello che in fondo passa in sala, ma così velocemente che quasi non ci si accorge, come è il caso del film che vedremo domani sera di Wim Wenders, Il sale della terra, un film che è stato in sala ma con passaggi molto rapidi, quindi molte persone magari l'hanno perduto e torneranno a vederlo. Pensa che è stato uno dei cinque film che ho scelto per il 2014. Ah, benissimo, un film meraviglioso, anche sì, l'ho visto, sì, è veramente un film molto, molto intenso, molto toccante, anche molto che ci riguarda tutti in maniera universale, insomma. Sì. Il film successivo è L'Impenetrabile, anche questo è un film che è dedicato a una regione del sud del mondo, ma ha un'esperienza anche molto particolare dello stesso regista Daniele Incalcaterra, e lui sarà in collegamento Skype con noi. Ma in sala ci sarà anche Leonardo Di Costanzo, altro noto documentarista, certo, ma anche straordinario filmmaker, con l'ultimo film narrativo da lui realizzato, che presenterà il regista da lontano, ma presenterà anche questo progetto di cinema del Reale formativo che abbiamo a Ponticelli, nella periferia di Napoli, che è il centro Film Up, dove alcuni ragazzi studiano per diventare documentaristi e lo fanno appunto guidati da Leonardo Di Costanzo. Ecco, ci parli un po' di questo progetto formativo? Sì, è un po' un sogno che si avvera dopo tanti anni di lavoro sulla promozione del cinema, in particolare nella città estesa, nella città delle periferie. È un sogno perché da tempo volevamo mettere su una scuola che potesse regalare non soltanto le emozioni della sala, come accade ogni giorno da tanti anni grazie all'attività dell'associazione Arcimovie, ma anche di restituire dei metodi, delle competenze, e quindi di guardare al futuro anche con delle modalità di lavoro. Ecco, 16 giovani hanno partecipato al progetto, hanno seguito 4 mesi di atelier di Cinema del Reale con Leonardo, stanno continuando adesso con la scrittura di nuovi progetti più ampi che saranno prodotti nell'ambito del centro formativo. Quindi è un centro Film Up che mette insieme, coniugando sia la formazione che la produzione, aspirando ovviamente a diventare anche un punto di attività, per, come service, come nel cinema a Napoli. Mm-hmm. Senti, oltre a questo laboratorio e a questa rassegna, avete anche altre attività durante tutto l'anno che riguardino soprattutto chiaramente le proiezioni? Sì, il Cinema Pierrot di Ponticelli, che è una sala storica salvata nel 93 affinché non diventasse un supermercato, è una storia abbastanza nota in tutta Italia, che ha ospitato negli anni tanti registi, attori che sono venuti a presentare i film. Noi abbiamo un cineforum che si svolge ogni settimana con la presenza di oltre 1000 persone che fanno una tessera e che vedono insieme ogni settimana un film diverso. Mm-hmm. Ed è una tessera che costa 30 euro per vedere 25 film, quindi la vera pura promozione del cinema come si faceva nei vecchi cineclub. e poi la mattina ci sono tutti questi ragazzi delle scuole che vedono i film assieme, che ne discutono con quando c'è in sala il regista, oppure con degli operatori, degli educatori che presentano il film. Mm-hmm. Ecco, proprio a proposito di queste rassegne e del lavoro nelle scuole, la risposta del pubblico? Assolutamente, noi possiamo, associazioni come l'Arcimovie e come tante altre che sul territorio italiano fanno cose per le persone, possono vivere soltanto se le persone partecipano, sono il centro. L'ultima volta che è venuto Martone abbiamo simbolicamente fatto una foto di lui con il pubblico, perché e senza il pubblico non esiste l'attività che noi facciamo. E questa associazione, che ha 25 anni quest'anno, quindi sono tanti anni, ha contato su un affetto molto grande del pubblico che ha seguito queste attività, alimentando poi un cuore della periferia, che non è soltanto quello solitamente noto del degrado, del disagio, ma della cultura, della progettualità che serve alle persone per crescere come individui, come persone. Antonella, in chiusura ci lasci riferimenti internet e poi ci terrai aggiornati sulle vostre attività? Assolutamente, allora internet www.arcimovie.it. Il prossimo appuntamento appunto è domani sera con Il Sale della Terra, seguirà L'Impenetrabile e poi Lei disse sì, che è un film su un matrimonio lesbo di epoca moderna, che racconta la storia di queste protagoniste e del loro amore. Poi vedrete il film, così si vedrà come va a finire. Ecco, a questo punto ti ricordo anche di girarmi i contatti delle due autrici, perché le sto cercando da tempo. Perfetto, lo farò subito. Benissimo. Buon lavoro a voi. Un abbraccio e alla prossima. Ciao Antonella. Antonella Di Nocera, curatrice della rassegna Stradoc, viaggio nel cinema del Reale al Cinema Astra a Napoli, cominciata il 30 gennaio, proseguirà fino al 6 marzo prossimo. Federico Bondi, regista del documentario Educazione Affettiva, uscito in sala il 3 febbraio scorso. Federico, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie dell'invito, buon pomeriggio. Con te è la seconda volta che ci sentiamo, c'eravamo contattati per il diverso tempo. Per il tuo lavoro precedente. Questa volta di cosa si tratta, Federico? Un documentario che racconta gli ultimi giorni di scuola di una quinta elementare. Sempre una storia di amicizia, la storia di un legame profondo, di un gruppo molto coeso di bambini, prima della separazione, che segna di fatto la fine dell'infanzia, ecco. Da dove viene fuori? Da un invito della scuola. La scuola ci ha, scuola Città Pestalozzi di Firenze, ci ha fatto conoscere questi bambini e ce ne siamo innamorati subito. E grazie a questi bambini, diciamo, che c'è questo film. Ci hanno regalato la materia prima, ecco. Oh, per quanto è un'esperienza bellissima. Un'opportunità, insomma, poter accedere dentro questa classe. Po' un tuffo nel passato anche. Per quanto tempo avete lavorato a questo documentario? Ma diciamo, il rapporto con i bambini è andato avanti per un anno. Poi però ci siamo concentrati proprio nell'ultimo mese, quindi diciamo 4-5 settimane di riprese. Che sistema educativo segue questa scuola di Firenze? È una scuola sperimentale. L'educazione affettiva è proprio una materia che si insegna. C'è una consapevolezza, la conoscenza passa attraverso le relazioni. Mm-hmm. E di fatto è così, perché non so, quando andavi a scuola te nozioni, informazioni, date, numeri, sapere è una cosa, sentire è un'altra. Se senti forse assimili molto di più, e gli affetti sono determinanti, sai, questi due maestri lasciano un segno. È andata via la linea, riproviamo. Questi due insegnanti lasciano il segno ed è caduta la linea. Esatto. Insegnare, stando all'etimologia, significa lasciare un segno, nel bene o nel male. Questi due maestri lo lasciano, come un segno, come le mie due maestre 30 anni fa lasciarono a me. Tuttora sono dei punti di riferimento, dei veri e propri fari per me sono stati, e quindi forse proprio grazie a questa esperienza, la mia esperienza, ho deciso di farne un film. È il periodo più bello, è stato il periodo più bello della mia vita, sicuramente. Senti, una parte del tempo si svolge anche all'aria aperta, mi sembra questo un altro elemento importante. Sì, tutto il film è compresso dentro questo istituto, poi c'è una gita dalle colline metallifere in Toscana fino al mare. Sì, sicuramente svolge una funzione anche liberatoria questa gita. Stato bellissimo fare questo trekking di 3 giorni auto organizzato dai bambini, hanno fatto tutto loro senza l'aiuto dei maestri. Ecco, proprio in questo volevo chiederti, come vengono responsabilizzati i ragazzi? Già appunto, organizzare una gita non è poco, sì. Divertente, molto divertente. Senti, visto che è passato, considerato che è passato un po' di tempo dal tuo lavoro precedente, nel frattempo cos'è successo? La tua attività come si è svolta? Ma guarda, allora, in questi 5 anni io ho una famiglia, devo vivere, campare. Come ben sai, il cinema ti dà poco da vivere, ecco. Quindi io lavoro, faccio documentari su commissione, spot, non ho cambiato mestiere, ecco. però nel frattempo progetti devi crederci tantissimo, sennò è dura, è veramente dura. È un momento piuttosto desolante per il cinema italiano. E quindi progetti come questo di educazione affettiva mi danno, come dire, quella linfa, un progetto di questo tipo. Io ci ho lavorato in completa autonomia e libertà, grazie anche a un produttore illuminato, insomma, che ha creduto nel progetto, Enzo Coluccio di Ardaco. Lo vedo, capito, un progetto di questo genere, cioè come un vero e proprio gioco, un gioco libero. E come ben sai, in questo momento poter fare lavori liberi non c'è modo. Non c'è modo. Senti, è uscito in sala il 3 febbraio scorso, che tipo di risposte sta avendo? Ma ottima, per ora siamo partiti dalla Toscana, dove siamo più forti e in quante sale? Con l'idea di espanderci. Mm-hmm. E guarda, ora a Firenze una, ma poi subito dopo ce ne sarà un'altra, che è lo Stensen. Adesso siamo ad Alfieri, poi Pietrasanta, Cavriglia, Pisa, insomma, piano piano. Parte in tour, insomma. Sì. Senti, è prevista anche la presenza, la tua presenza in alcune proiezioni? Sì, in quasi tutte. Quasi tutte. Mm. Ha bisogno di essere accompagnato. Mm. Senti, che reazioni ha suscitato, soprattutto, cioè, nel pubblico che hai potuto incontrare? Ma, la prima reazione evidente è la commozione, cioè gran parte del pubblico si commuove, piange, perché poi si conclude proprio con questo strappo violento anche. Vedere un gruppo così unito doversi sciogliere, insomma, sicuramente una grande emozione. Mm-hmm. Sì, poi ho raccolto commenti, per ora, guarda, veramente molto positivi. Anche le recensioni sono ottime, diciamo, siamo veramente molto contenti e fiduciosi, ecco. Senti, pur rendendosi conto che siamo veramente un vaso di coccio, basta niente per essere trovati. Senti, per trovarvi in internet c'è un sito? Sì, educazioneaffettiva.com. Benissimo. E lì potete vedere anche tutte le tappe che faremo. Bene. Speriamo di arrivare a Roma. Eh sì, magari ne riparliamo proprio in vista di una proiezione pubblica qui a Roma. Perfetto. Federico, io ti abbraccio e alla prossima. Io abbraccio voi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Federico Bondi, regista del documentario Educazione Affettiva, uscito in sala il 3 febbraio scorso, martedì. Mario Sesti, ben ritrovato. Salve, come va? Tutto bene. Stiamo parlando di un sacco di cose, tra documentari, rassegne e quant'altro. È giunto il momento anche di Roma, per quanto riguarda il Maxi, di cui sei curatore della rassegna di cinema, dal 7 febbraio, quindi da sabato prossimo, fino al 28 marzo. Mario, di cosa si tratta? Ma dunque, si tratta innanzitutto di un'iniziativa che è nata l'altro anno, che ha visto il successo di più di quasi 10.000 persone che hanno sfilato, diciamo così, nel Museo della Creatività Contemporanea più importante di Roma, per raggiungere la fatidica saletta di più di 208 posti per vedere dei film. L'altro anno, tanto per dirne una, abbiamo avuto in anteprima filmetti come 12 anni schiavo e Grand Hotel Budapest, che poi in qualche modo, credo che tu sia d'accordo con me, hanno poi marschiato a fuoco una stagione. Quest'anno, visto il successo, abbiamo, siamo un po' montati la testa e speriamo bene, nel senso che oltre ai film facciamo anche delle cose un po' particolari, tipo musicisti che suonano dal vivo con film muti. In realtà, a dirla tutta, il programma si apre proprio con Teo Teardo, che gli appassionati di musica conoscono bene, ma anche quelli di cinema, visto che è stato tra i primi grandi collaboratori di Sorrentino, per dirne una. Ma anche di teatro, perché ha fatto Viaggio al termine della notte con Elio Germano. E sarà proprio lui ad aprire questa edizione di Cinema Maxi 2015 con una performance dal vivo su dei cortometraggi di Man Ray, che naturalmente è un grandissimo artista del Novecento, uno di quelli che tra l'altro ha lavorato di più sul destino, la forma, il senso della fotogenia e delle immagini. Quindi, come dire, siamo in un museo di arte contemporanea, abbiamo un grande musicista rock, ma anche di cinema, ma anche elettronico, che fa dal vivo una performance musicale accompagnando quelle immagini. Ci è sembrato che fosse il momento giusto, il modo giusto per iniziare. Mm-hmm. Però chissà, chi ha partecipato l'altro anno a qualcuno dei nostri appuntamenti sa che il mercoledì ci sono delle anteprime e quindi dei filmoni che faremo prima che arrivano in sala. soltanto per dire qualche nome di regista, sì, e per far venire l'acquolina alla bocca, abbiamo Paul Thomas Anderson, Michael Mann, abbiamo Jean-Marc Vallée, che è quello di Dallas Buyers Club. In particolare io ci tengo tantissimo, Federico, veramente tanto, a un film con il quale apriamo che si chiama White God. Sì. Un film ungherese che ha vinto a Cannes a 7 gare, che è un film veramente pazzesco. Pensa, è l'unico film della storia del cinema che è girato con 274 cani di canile, che sono bene in locandina, sono tutti esposti, mi sembra, naturalmente firmano tutti, naturalmente saranno lì a fare il red carpet. No, tu ci scherzi, ma c'è quello che secondo me è il Marlon Brando dei cani. Lo so che sembra una battuta, ma dopo che l'hai visto ti rendi conto che è un attore straordinario. Tra l'altro mi viene in mente che una volta con Xenia Rapoport, che due anni fa a Taormina, mi raccontava che in Russia, a differenza di quello che succede a noi, quando si dice che un attore è un cane, lo si dice proprio perché è bravo, cioè è così naturale da, no, da sembrare un cane. È un'espressione che insomma questo film in qualche maniera rende straordinariamente vera e interessante. E poi per terminare, naturalmente, cioè il sabato i classici, quest'anno mettiamo insieme due maestri della modernità, Bergman e Ferreri, uno che in qualche maniera apre la grande stagione della soggettività, della coscienza, della riflessione interiore, e un altro che un po' la chiude. È come se uno aprisse il destino dell'umano nel dopoguerra e l'altro dice: ragazzi, il destino dell'umano su questo pianeta è quasi completamente terminato. Quindi infatti si chiama Archeologia del Moderno questo ciclo. E poi ci abbiamo delle collaborazioni molto illustri a cui teniamo tantissimo, cioè Alice, che è un marchio che ormai è ben conosciuto dagli amanti del cinema in città, soprattutto per i film per bambini, ragazzi, preadolescenti e famiglie, e udite udite Il Piccolo America, perché l'idea che abbiamo avuto un po' con la Melandri era che sarebbe carino che il Museo della Creatività Contemporanea di anche spazio a coloro che poi si sono messi in luce all'interno di esperienze significative in città, e sicuramente per quanto riguarda la passione per il cinema, i ragazzi dell'America giovanissimi, finalmente una nuova generazione di cinefili, veramente non vedevo cinefili così giovani credo dalla fine degli anni 70. Anche in controtendenza, direi, rispetto... Totalmente, totalmente. Però devo dirti che ieri abbiamo fatto una presentazione, abbiamo proiettato 8:30 per Cinema e Moda con Pupi Avati, la saletta era piena, e devo dirti che per la prima volta ho visto tante facce al di sotto dei 30 anni, e non i soliti incartapecoriti come me, come gli altri, no? Insomma, questi cinquantenni, sessantenni, insomma, che un po' le palle con i film classici, cioè, finalmente, no, ho avuto l'impressione che molti per la prima volta vedessero 8:30, capisci? Sì, quindi quella trasmissione della memoria dei grandi classici del cinema, che probabilmente gente come me e come te ha percorso prima di arrivare a fare di questa passione qualcosa che somiglia a un lavoro, si sta riattivando. Senti, una curiosità rispetto a questa carrellata che arriverà fino a marzo, volevo chiederti i criteri di scelta dei titoli, quali sono stati? Beh, guarda, naturalmente io non credo nella natura artistica dei curatori, nel senso che, per dirtene una, io ho diretto per 3 anni come direttore Taormina, e ho preteso che mi si chiamasse direttore editoriale, perché non credo che il direttore artistico abbia nulla d'artistico. Però quest'anno in realtà io, e anche devo dire Alessandro Fontemancia, a capo dell'ufficio cinema del FESE, che ha collaborato con me alla redazione di questo programma, naturalmente abbiamo potuto scegliere tra tante offerte. Insomma, è evidente per chi conosce il nostro lavoro al cinema che Michael Mann è una delle nostre stelle polari. Abbiamo fatto uno dei più belli incontri qui al festival. Paul Thomas Anderson, io credo che sia il più grande regista americano, intenso come autore, dai tempi di Scorsese probabilmente. E, naturalmente anche qui Jean-Marc Vallée è un regista che con Dallas Buyers Club ha riscaldato i nostri cuori in una edizione del Festival di Roma. È stato uno dei, pensa... Uno dei 5 proprio film scelti da me dalla Buyers Club per il 2014. È un altro dei titoli, anche questo, Il segreto del suo volto, Phoenix, che abbiamo avuto qui a Roma, di Christian Petzold, il regista che, della scelta di Barbara, che è un film che è stato molto apprezzato alla festa. E, beh, insomma, è evidente, Federico, che consideriamo questa esperienza di collaborazione con Maxi anche un prolungamento dell'attività del festival con altri mezzi, quindi, e quindi l'idea di anche di promuovere dei film che abbiamo aiutato a scoprire. Sì, però sì, più in generale io credo che il criterio fondamentale sia quello della sana cinefilia, cioè la bulimia, c'è di tutto, ci sono film per ragazzini, ci sono film per famiglie, ci sono film, grandi film di genere, ci sono grandi classici per l'appunto Bergman, Ferretti. Cioè appunto apriamo con un film fatto solo di cani, cioè come dire, più di, cioè, più versatili di così è difficile, sì, essere. Sì, e poi sì, soprattutto il cinema è anche bello proprio come metafora di tutta la diversità che ci può essere nella realtà, nelle cose, nei racconti, nei linguaggi, negli stili, nei gusti, no? E quindi più diversità riesce a mettere insieme, tanto più secondo me la forza del cinema, la sua ricchezza viene fuori. A proposito di alcuni titoli che abbiamo tirato fuori adesso parlando della rassegna che sono dello scorso anno e sai della cinquina in cui ti ho coinvolto anche tu, sì, dei film usciti in sala nel 2014, alla fine ha stravinto Boyhood con 10 voti, eravamo in 17, poi alla fine eravamo pure parecchi a votare, e, e il secondo arrivato è in solitaria Anime Nere di Munzi, pensa. Guarda, Anime Nere io lo considero, credo di averlo detto anche quando abbiamo fatto il referendum, il film italiano più bello dell'anno. Considero Munzi di gran lunga il regista autore più interessante che ho venuto fuori negli ultimi 10, 15, 20 anni. Quindi, tra l'altro, ho fatto con lui un paio di bellissimi incontri per un master, eccetera, e mi ha raccontato che il suo film è stato venduto in 20 paesi. Sì, sì, sì. 20 paesi, io credo, sì, che sono Giorgi. Mi ha raccontato questa cosa bellissima, che in Spagna viene distribuito col titolo Calabria, no? Cioè, è un po' come i film di Hong Kong, no? Cioè, i crime movie, cioè, sono molto belli questi momenti in cui, sì, tu racconti, sì, sì, una, sì, realtà che ti sembra così locale, così particolare, ma in realtà mai raccontata, quella della Spromonte in profondo, e scopri in realtà che le passioni, il furore, il tumulto, i conflitti, il dramma, la pietà, che questa, tutto questo libro poi è così forte di diventare universale a qualsiasi latitudine. Sì, sì. Questa è poi la forza del grande cinema di genere ed è anche il grande cinema d'autore. Sì, l'ho proprio chiamato per dirgli di questa cosa, insomma, che può sempre far piacere, insomma. Mario, io ti ringrazio, ricordiamolo, insomma. Siete sempre così attenti al mio lavoro e non posso che ringraziarvi. Un abbraccio, a presto, Mario. A presto, ciao. Ciao, ciao. Per Mario Sesti, per Cinema al Maxi, dal 7 febbraio, cioè sabato, fino al 28 marzo prossimi. Oh, eccoci con l'ultimo collegamento per la puntata settimanale di Visionari con Daria Pomponio di Kinlan, rivista di critica cinematografica, per parlarci un po' anche della campagna Save Film. Daria, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao Federico, grazie. Allora, partiamo dall'esperienza della rivista. Sì, guarda, noi siamo un gruppo di 4 soci, 4 critici abbastanza militanti, che siamo io, Alessandro Anniballi, Enrico Azzano e Raffaele Meale, e venivamo tutti, insomma, da altre esperienze sul web prettamente, e abbiamo deciso di mettere una cosa nostra, il nostro sito, che prende il nome da un film di Orson Welles, che è l'infernale Quinlan, e da lì appunto Quinlan.it, e abbiamo iniziato la nostra attività di critica circa un anno fa, nel novembre del 2013, e quando abbiamo iniziato, tra i primi eventi che abbiamo iniziato proprio a seguire, c'era le giornate del cinema muto di Pordenone, dove è avvenuto un incontro importante, insomma, abbiamo fatto un'intervista a Paolo Cherchiusai, che è un esperto, un grande studioso di cinema muto, e è tra i soci fondatori delle giornate del cinema muto di Pordenone, ed è anche il direttore della George Eastman House di Rochester, e lui ci ha parlato di tante cose importanti, e da lì un anno, quando l'abbiamo rincontrato, ci ha parlato dell'iniziativa anche di Save Film, che, di cui appunto vi volevo oggi parlare. E si tratta di... mi senti ancora? Sì, sì, benissimo. Ah, ok, non sentivo feedback, scusa. Allora, si tratta di un'iniziativa per la difesa del cinema in pellicola, ma non è un'iniziativa, diciamo, che non tiene conto del progresso o dell'importanza del digitale, semplicemente si tratta di mantenere la differenza, cioè noi dobbiamo avere la compresenza di due cose, perché sono due cose diverse, cioè chiunque può vedere che l'immagine digitale è una cosa e l'immagine in pellicola in 35 mm è un'altra, per densità, per colore, per rapporto, non solo affettivo, è proprio un'altra cosa. E quindi non è una cosa del tutto cronistica. Loro dicono che bisogna mantenere la differenza, perché addirittura appello, e noi con loro, a una convenzione dell'UNESCO, che sarebbe la convenzione siglata nel 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Allora, all'interno di questo loro vogliono far rientrare anche il fatto che appunto va mantenuta l'unicità e la specificità della pellicola. Sì, sì, sì. Ma allora, oltre a mantenere questa specificità della pellicola, quindi a conservare la pellicola nelle nostre cineteche, c'è anche un'altra cosa molto importante, cioè noi dobbiamo batterci anche per conservare quelle che sono le professionalità della pellicola, cioè quei laboratori che molti sappiamo che hanno chiuso di recente, cioè quei laboratori che la producono, e poi soprattutto le professionalità che ci stanno intorno e che riguardano il momento della proiezione. Quindi insomma, cioè la diversità culturale è anche questo, sì. È anche poter scegliere, cioè avere la possibilità di scegliere se vedere un film su un formato o su un altro. E ovviamente insomma c'è un pizzico di utopia, un po' la speranza che la pellicola torni nelle sale, magari sotto forma di evento. Ci sono già molte realtà che lo fanno, per esempio al Palazzo delle Esposizioni a Roma, e poi c'è la Sala Trevi, che è la sala della Cineteca Nazionale, dove è possibile vedere film in pellicola. E invito tutti ad andarli a vedere, perché magari non si ricordano che tipo di esperienza è. E, dunque, poi volevo insomma segnalarvi, sì, anche la petizione online di Save Film, che si può firmare a savefilm.org. E hanno già aderito moltissimi grandi artisti del cinema e non solo, e tra i sostenitori guida, vabbè, come vi dicevo, c'è Paolo Cherchiusai, ma c'è anche Guillermo Navarro, che è il direttore della fotografia abituale di Guillermo del Toro, ma anche il direttore della fotografia di Jackie Brown, per dire. E poi c'è l'artista Tacita Dean. Tra i sostenitori ci sono grandissimi autori come Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Noam Baumbach, James Gray, Martin Scorsese naturalmente, e anche attori, perché non è una cosa che riguarda solo i registi, cioè ci sta per esempio Keanu Reeves, Kate Blanchett e molti altri. Insomma, la lista completa poi la trovate sul sito savefilm.org. Poi volevo insomma magari fugare anche qualche curiosità sul rapporto tra cinema e pellicola. Vai! Magari non tutti lo sanno, ma il digitale è più comodo, no? Più economico, cioè, ce lo vendono così, ed è tutto vero. È pratico, si trasporta, è un file spesso il film, no? Sì. Lo puoi inviare adesso via satellite e tutto quanto. Però c'è un piccolo difetto rispetto alla pellicola, un difetto che è importante se noi pensiamo al contenuto e a quella che è la tua vita. Cioè, il digitale dura molto meno della pellicola. Un film su digitale dura in media 5-8 anni, mentre la pellicola sappiamo che, se conservata adeguatamente in frigo, magari in una cineteca, che è l'ideale, dura intorno ai 100 anni, se non di più. Allora, quando noi abbiamo scoperto questa cosa, io e i miei soci di Quinlan, abbiamo pensato che fosse anche giusto diffondere questa informazione, che magari non tutti sanno, perché questo in pratica deve spingere ovviamente quelli che sono, non so, il MIBAC o gli enti governativi dei vari paesi a foraggiare quelle che sono le cineteche, perché le cineteche hanno bisogno degli investimenti per poter conservare quello che è il nostro patrimonio filmico, e la conservazione migliore è al momento su pellicola. Quindi si tratta di fare, per esempio, quando si fanno i restauri, che si fanno spesso in digitale, va bene, i ritorni in pellicola per poterla conservare almeno 100 anni. Certo. Quando noi abbiamo saputo questa cosa, che ci ha raccontato sempre Paolo Kirchizai, lui ci ha raccontato l'aneddoto nel dettaglio in cui Hollywood ha scoperto questo problema della durata del supporto digitale, ed era in relazione a un film che forse ti ricordi, Toy Story sì. Fu lanciato come il primo film fatto completamente in digitale. Allora, quando è venuto il momento di fare il DVD, sono andati a riprendere questi file digitali, e la maggior parte erano, come dire, decomposti, cioè di fatto erano tutti danneggiati, cioè l'80% erano danneggiati. Mm-hmm. E come hanno fatto a fare il DVD di Toy Story, secondo te? Con la pellicola. E sono andati a pescare la pellicola, hanno digitalizzato la pellicola e si sono accorti del problema. Mm-hmm. Il problema, che ovviamente per Hollywood non è un grosso problema, perché cosa si fa con i file digitali? Li prendono e si fa una migrazione, cioè, come dire, si spostano da una parte all'altra, più o meno come quando tu fai un copia e incolla, no? Sì. Copia e incolli il file, così c'hai due copie. Allora, questa migrazione digitale, però, di quelli che sono tutti i contenuti cinematografici di una major nel caso di Hollywood o una cineteca nel caso dell'Italia, c'ha un costo che è molto ma molto maggiore rispetto a mettere 6 pizze o quante sono di pellicola in un frigo. Sì. Quindi insomma c'è un grosso problema, e per questo che insomma io faccio appello a te e a tutti i nostri ascoltatori di questo momento per firmare questa petizione, che è una cosa soprattutto simbolica, certo, ma che vuole dare un messaggio importante: mantenere la diversità per non perdere tutto, perché rischiamo di perdere tutto quello che è, anche non dico ora ovviamente, però tutto il patrimonio che è depositato nelle nostre cineteche. Mm-mm. Che è tanto. Sì, sì, sì. Quindi, bene, allora ci sono stata troppo militante. No, però è una lotta estremamente pacifica. Senti, ci lasci tutti i riferimenti? Sì, allora del nostro sito, dove trovate anche il banner per accedere direttamente alla petizione 6 film. Il nostro sito è www.quinlan.it, Quinlan come l'infernale Quinlan. Benissimo. E mentre 6 film è www.6film.org. Daria, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Grazie a voi, grazie mille. Ciao. A presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Daria Pomponio di Quinlan, la rivista di critica cinematografica. E con lei chiudiamo per quanto riguarda la puntata della settimana di Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta e tutte le informazioni le trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Ci sentiamo la settimana prossima, sempre lo stesso orario.